24 mattino. L'Italia si desta. Questa mattina buona giornata, buon 8 dicembre da Anna Migliorati. Per chi ci ha ascoltato anche prima si sarà accorto che abbiamo cominciato solo ora il nostro mattino, concedetelo, ci siamo presi anche noi una giornata un po' di festa. Anche Alessandro Mela non c'è, ci sono io, ma i giornali come sempre ci sono, e quindi cominciamo la nostra rassegna stampa di questa mattina. Quotidiani sui quali i temi che si rincorrono sono più o meno gli stessi, a cominciare ancora dall'inchiesta su Roma Capitale, che non manca mai di darci novità e nuove chicche anche oggi, e poi le bacchettate ancora della Germania all'Italia, la politica con i 5 Stelle che ieri hanno provato la loro mini scissione, ma che poi scissione non è, così dicono, ma in fatto sta che c'è un altro sindaco che arriva alla ribalta, che è Pizzarotti. Ne parleremo, e poi la prima della Scala. Come ormai tradizione, il 7 dicembre si apre la stagione del Teatro Milanese, scontri fuori, musica dentro, critiche fuori, critiche dentro, ne parleremo ampiamente. La carrellata però innanzitutto delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina, a cominciare dalla Repubblica, che sceglie il tema tedesco per aprire la prima pagina di oggi. Italia-Germania e scontro, così scrive la Repubblica. L'immagine è quelli di caos e applausi alla Scala blindata, più scontri fuori che teatro dentro per la scelta della Repubblica. L'immagine di oggi sono la polizia in assetto antisommossa e i movimenti per la casa. Altri temi in prima pagina sulla Repubblica, ancora a Roma, in 2 anni 44 bonifici, la prova delle tangenti, e poi Papa Francesco, 7 impedimenti che vanno tolti ai divorziati, un altro tema di cui parleremo più avanti. La Stampa, anche qui la scelta è la stessa, Merkel-Renzi, duello sulle riforme, e anche qui un cupo Fidelio in una Scala blindata, poliziotti antisommossa, prima senza star, mancavano Napolitano e Renzi, alla fine 12 minuti di applausi per Barenboim. Il Messaggero, apertura ovviamente su Roma, le mano la pista dei soldi, oggi la Leopoldina ci ricorda anche il Messaggero, Renzi vuole rivoltare il PD romano, carta bianca a Marino sugli assessori, un po' di la piazza pulita di Renzi per il PD romano, il tema su cui si sofferma il Messaggero. Anche qui prima la Scala, scontri a Milano, e poi ancora la vicenda di Loris in un paese dove nessuno difende la madre, così scrive il Messaggero. Il Corriere della Sera, anche qui la scelta dell'apertura è Roma, il caso Roma, la traccia dei soldi, lunghi applausi per un Fidelio operaio, ma il Corriere della Sera va un po' controcorrente, quel che non è piaciuto del Fidelio è soprattutto le immagini all'interno più che degli scontri fuori. Anche qui ci sono però le critiche di Merkel, Italia e Francia, e la replica basta pagelle. Il Fatto Quotidiano si concentra anche qui ancora su Roma Capitale, Carminati lo conosco bene, parla l'ex box della Magliana Antonio Mancini sul Fatto Quotidiano. Ancora veloce carrellata al Secolo XIX, soldi in Argentina dai politici di Roma. E poi il Giorno, il mea culpa delle COP, ma il filone è sempre lo stesso, mafia capitale, leader di Coppa Adriatica, troppi errori, cambiamo dirigenti, gli affari sporchi della cupola, società e case di lusso anche a Londra, e poi la festa e la rabbia della Scala. Il giornale oggi un'apertura un po' diversa, l'eredità di Napolitano, il controcorrente del giornale, 4 milioni a Monti tra stipendi, benefit e pensioni. La nomina del prof è un salasso per gli italiani. Allora, i conti che fa il giornale, poi veniamo agli argomenti clou della giornata di oggi, che ci sono un primo piano su tutti i quotidiani. Il giornale, dicevamo, questa apertura tutta sua, tra stipendi, benefit e pensioni, la nomina del prof è un salasso per gli italiani. I conti riguardano Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, i senatori a vita nominati da Napolitano. Ebbene, il giornale fa i conti sull'aspettativa di vita, ci costeranno 4 milioni Monti, la giovanissima Cattaneo sulla base dell'aspettativa di vita ci costerà 9,8 milioni e Renzo Piano altri 2, insomma i conti del giornale. Ma dicevamo, sono lo scontro tra Italia e Germania e sicuramente ancora la vicenda di Mafia Capitale, i temi a dominare maggiormente le prime pagine di quest'oggi. E allora ecco, Italia-Germania è scontro, così scrive la Repubblica, che all'interno ha anche la Merkel che parla direttamente, un'intervista presa da Felt am Sonntag. Ebbene, dice la cancelliera Merkel, la Commissione ha indicato una roadmap, una tabella di marcia con indicazioni sui tempi entro quali Francia e Italia devono presentare impegni e ulteriori misure, una posizione difendibile perché entrambi i paesi affrontano davvero un processo di riforme, ma la Commissione ha detto anche chiaramente che i piani presentati da Italia e Francia non sono sufficienti e io sono d'accordo. E la stoccata della Merkel, a me pare che l'affidabilità sia un bene di alto valore per la politica come per l'economia, con le nostre decisioni noi manteniamo la parola data agli elettori, come a sottintendere che altri, e appunto Italia e Francia, non lo fanno. E allora i commenti, La Stampa, siamo indietro, dice Luigi La Spina, ma qualcosa è stato fatto. Dopo la bocciatura di Standard & Poor's arriva l'insufficienza della Merkel sui compiti fatti da Renzi, non sono proprio incoraggianti quelli che piovono sul nostro premier in occasione tra l'altro del suo primo anno alla presa del potere del suo partito, che è la tappa fondamentale per il passo successivo. Ma anche comincia ad esserci la delusione degli elettori, dice La Spina. Ebbene, conclude, scontata la necessità di accelerare, sarebbe opportuno anche rivedere la priorità delle riforme secondo una diversa urgenza e forse riequilibrando gli indirizzi di politica economica finora troppo concentrati, così scrive La Stampa, sul sostegno all'offerta e meno preoccupati di rafforzare la domanda, che è poi la stessa tesi che ha avanzato ieri la Merkel, dicendo che nella sua Germania però la domanda va. Il vero pericolo però, scrive ancora La Spina sulla Stampa, è la rassegnazione, una rassegnazione che non possiamo permetterci. E allora scontri sul lavoro, rassegnazione o meno. Sul Corriere della Sera oggi, restando a questi temi, c'è invece un'intervista che vi voglio segnalare ed è del garante degli scioperi a livello patologico in questo 2014. Ricordiamoci che tra l'altro il 12 dicembre ci sarà lo sciopero generale della CGIL, il grande clou di questa stagione. 1279 gli scioperi del 2013, e parliamo di 1279. Al 30 novembre siamo a 1299 e parliamo degli scioperi in un anno, oltre 1299 scioperi, sono 365 giorni, facciamo un po' i conti. Allora il garante degli scioperi dice siamo a livello patologico, il governo deve tornare a mediare, il presidente dell'Authority Aless, istituzioni pavide e autoreferenziali, sono parole durissime, serve più dialogo, in questa Italia da tempo nessuno media più, negare interlocuzione è rischioso in tempo di crisi, se i sindacati che scioperano va applicata rigorosamente la legge perché l'Italia non può paralizzarsi, al governo va l'appello affinché incentivi le sedi del dialogo, perché è inimmaginabile che la ragione stia sempre solo da una parte, così dice Alessi. Allora, tema sicuramente su cui si dibatterà ancora nei prossimi giorni, anche perché domani riapriranno anche i mercati e poi non solo, vedremo insomma quali saranno le reazioni, questo intanto i commenti di questa mattina. Abbiamo ancora un minuto prima della pausa del traffico, parleremo di Roma, parleremo di Pizzarotti, sono moltissimi, dicevamo, i temi. Vi do una segnalazione invece da 8 dicembre sicuramente, perché oggi è anche il giorno intanto di Teleton torna in TV la maratona benefica, leggiamo dalla Stampa, ma lo trovate un po' su tutti i giardini, lo slogan della campagna 2014, fino a domenica si raccolgono le donazioni per la ricerca. Perché allora una curiosità, così ve la leggo, anche Grey's Anatomy si è ispirata alle scoperte del ricercatore Teleton Luigi Naldini, la dottoressa che salva nella fiction un bambino affetto da una immunodeficienza congenita, la stessa intuizione che ebbe Naldini quando domesticò il virus dell'HIV per renderlo veicolo sicuro per la terapia. terapia genica. Ebbene, allora, un motivo in più per ricordarci che comunque oggi, 8 dicembre, è tra le altre cose anche la giornata di Telethon. Una piccola pausa, ripartiamo dopo perché sui quotidiani ci sono molte novità anche sull'inchiesta di Mafia Capitale. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera, ma la vicenda è riportata da molti quotidiani. È l'inchiesta Roma Capitale, i soldi, le mazzette, dove sono finiti? Sarebbero finiti in Argentina, stando alle dichiarazioni delle intercettazioni di alcuni degli indagati. Il percorso dei soldi che porta in Sud America e poi anche ad una fiduciaria di Lugano in Svizzera, perché non poteva mancare, dove gli spalloni dell'organizzazione avrebbero trasferito i soldi delle tangenti versati ai politici. Ma il clou di queste intercettazioni riguardano proprio l'ex sindaco di Roma che valigia alla mano, pezzo pezzo, in Argentina avrebbe trasportato questo denaro, stando ovviamente ai racconti degli indagati. Il 31 gennaio scorso Luca Odevaine parla con altri due presunti complici di una lite che Alemanno avrebbe avuto con un uomo che non viene citato, e tra le varie cose dice, citiamo testualmente dalle intercettazioni: ma sai che Alemanno si è portato via, ha fatto 4 viaggi, lui e il figlio, con le valigie piene di soldi in Argentina. E si sono portati con le valigie piene di contanti. Ma ti sembra normale che un sindaco? E nessuno ha controllato? No, è passato al varco riservato. E qui risbuca, come in altre inchieste, il varco riservato, il famoso varco riservato di Fiumicino, da dove Alemanno col figlio, valigia alla mano, avrebbe portato i soldi in Argentina. Ovviamente sono dichiarazioni, le inchieste vanno avanti. C'è poi anche una fiduciaria di Lugano da cui dovrebbero venire fuori invece altre tracce, così sul Corriere della Sera. E il fatto quotidiano anche qui si dilunga su queste valigie al varco di Fiumicino dirette verso l'Argentina, ma c'è anche l'ex box della Magliana Antonio Mancini che racconta il re di Roma. Lo conosco dalla fine degli anni 70, ovviamente si riferisce a Carminati, è in mano il regno criminale di Renatino De Pedis, il suo erede tiene tutti i fili e vi dico, così dice Mancini, riuscirà a uscire innocente da questa storia, così su il fatto quotidiano di oggi. E non ci sarebbe solo l'Argentina, il Sud America, ci sarebbe forse anche l'Africa. Mokbel, che studiava la fuga in Guinea, per lui e Dell'Utri, così sempre il fatto quotidiano. Marcello Dell'Utri, un incontro all'allora senatore PDL con Gennaro Mokbel 3 mesi prima dell'arresto in Libano. Dalle intercettazioni telematiche degli smartphone risulta un interessamento per la Guinea, tappa del paese centroafricano. L'uomo di Mafia Capitale diceva: non conosco il senatore, ma i carabinieri l'hanno visto con lui e spiato le sue ricerche sull'Africa, l'Argentina e l'Africa. Cominciano a spuntare anche i paesi esteri in questo in questa inchiesta. E il calcio non poteva come non arrivare ad intercettazioni anche su questo. Sempre il fatto quotidiano: Pradel, boss e il mondo del pallone, le indagini su Mafia Capitale, leggiamo sempre dal fatto quotidiano, puntano anche al mondo del calcio, in particolare i rapporti tra Massimo Carminati e Daniele Pradex, direttore sportivo della Roma, oggi in forza alla Fiorentina. Non soltanto amicizia, secondo gli investigatori, ma interessi comuni che meritano di essere verificati con attenzione. E spunta un altro personaggio, Marione, ultra della Roma, la sua amicizia con il Guercio è datata nel tempo, anche lui apparteneva all'organizzazione fascista dei NAR, il nucleo armato rivoluzionario. In un'intercettazione Carminati e Marione commentano la vignozia di Ignazio Marino. Adesso si va a bussacchiare, l'obiettivo è chiaro, bisogna presentarsi dai nuovi eletti. E allora, in tutto questo che succede? Succede che c'è un'autorità con anticorruzione in Italia, è Cantone, ormai l'abbiamo visto entrare un po' in tutte le grandi inchieste, dal Mose all'Expo. Di fronte a Roma Capitale, che succede? C'è un'intervista sulla Repubblica di oggi dove Cantone dice: in fin dei conti non si può arrestare tutti. Allora, poltrona scomoda la sua in queste ore, chiede Liana Milella sulla Repubblica a Cantone. La gente mi ferma per strada, risponde Cantone, mi dice: arrestateli tutti. E lei si meraviglia? Chiede la giornalista. La cosa mi preoccupa molto, mi ricorda la voglia di forca e monettine del 93. Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, così insomma rivela le sue preoccupazioni. Allora leggiamone ancora qualche breve stralcio. Dov'è che la gente la ferma? Dov'è successo? Gli chiedono. Dovunque, a Roma, a Napoli, in tutti i luoghi in cui mi sono recato in questi giorni. La gente vuole risultati, sì. In un paese in cui in crisi vedere chi ruba indegna ancor di più, e quindi è difficile far ragionare la pancia delle persone, ma il nostro compito è ragionare e non farci prendere dall'emotività. Lei è al vertice dal 28 aprile dell'autorità anticorruzione, ma Roma è scoppiata lo stesso. Poteva fare di più? Gli chiedono. Ho fatto tutto quello che umanamente era possibile fare in questi mesi. Io e gli altri 4 colleghi siamo entrati in santuari intoccabili. Expo, il Mose, si sa già, ma abbiamo imposto regole rigide di trasparenza alle società pubbliche che agli ordini professionali. Abbiamo attivato la vigilanza su un enorme numero di appalti. Abbiamo stipulato convenzioni con tutti gli organi per la formazione dei pubblici dipendenti. Insomma, ma lei fino ad oggi ha fatto arrestare qualcuno? Gli chiedono. Io non sono un PM, certamente il nostro lavoro potrà servire per fortuna inchieste, ma non è solo con gli arresti che si vince la corruzione, così dice Raffaele Cantone. E ovviamente anche su questo sicuramente nei prossimi giorni qualche altra novità i giornali quotidiani e la rassegna stampa ce li riserveranno, ovviamente anche i giornali radio di GR24. Ieri 7 dicembre però La Scala, come non possiamo non parlarne, l'immagine dicevamo che un po' ovunque è sui quotidiani di oggi, anche se a dir la verità sulle prime pagine, come e non è un'assoluta novità, spesso accade con la prima della Scala, sono stati gli scontri fuori a vincere in qualche modo la gara delle immagini, sono per la maggior parte gli scontri fuori, molto meno le immagini dell'interno di quello che è successo invece sul palcoscenico. Allora, sulla Repubblica andiamo, causa applausi alla Scala blindata, ma è stato anche la giornata sicuramente di Barenboim. 13 minuti d'applausi per Fidelio, il trionfo è di Barenboim, scrive Leonetta Bentivoglio, il pubblico ha già nostalgia di Daniel Barenboim, il maestro ebreo argentino che ha aperto la stagione della Scala col Fidelio di Beethoven, sua ultima produzione dopo 9 anni di contrastata e focosa militanza come direttore scaligero, accolto da 13 minuti di ovazioni e lanci di fiori anche sui cantanti. Boati passionari si ripetono all'inizio del secondo tempo per poi esplodere nel trionfo conclusivo, scrive Leonetta Bentivoglio, così è questo teatro capriccioso e perfido, premia le sue star quando lasciano il trono, accade con Abbado e poi anche con Muti, insomma un lungo applauso, un lungo addio, ma proprio un addio sembra lasciare intendere Repubblica. E cattivello è sicuramente il Corriere della Sera, dove Paolo Isotta firma un commento di cui basterebbe il titolo: tutto quello che a me non è piaciuto. Il maestro Daniel Barenboim ha diretto con correttezza, ma tempi troppo lenti, cantanti non hanno brillato. E poi ancora andiamo alle pagine interne. La regia di Deborah Warner, un errore, fino a metà del secondo atto pareva povera per avvilire in una sporca quotidianità la terribilità tragica. Un Fidelio, ricordiamo, trasportato non tanto in una di Siviglia quanto in una fabbrica dei tempi nostri, questo era l'allestimento di ieri, ma quando, scrive ancora Paolo Isotta, all'ultimo quadro la fabbrica dismessa viene occupata da un popolo di straccioni agitanti stracci rossi, ci si rende conto che oggi la migliore regia straniera non vale la peggiore italiana. Insomma, stroncatura totale, e chiosa così: chi ha tanto ammirato la recita di ieri tenga conto che io sono al mio 40° 7 dicembre. E insomma, pro e contro di questa scelta, di questo Fidelio trasportato ai giorni nostri. Chissà allora se è piaciuta questa idea al nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. No, ma io nonostante, buongiorno Anna, buongiorno a tutti, nonostante gli appellativi che mi riserva Milan, non sono così intenditore di musica, quindi mi rimetto ai pareri che hai di cui hai dato conto sui giornali. Contrastanti, no? Uno di qua, uno di là, così ognuno. Ma vedremo, che c'è chi dice bene, c'è chi dice male. Ci sono cose più certe in qualche modo, tipo il conto delle imposte locali nei capoluoghi di regione. Che quelle amare. Oggi. Il Sole 24 Ore, prima pagina di oggi, il Sole del lunedì. Mauro, il conto delle tasse locali. Sì, c'è una media di 466 euro per abitante, però è proprio la classica media, sai, quella del pollo, del mezzo pollo, tutti mangiano mezzo pollo, in realtà non è così, poi c'è quello che ne ha mangiato uno e quello che non ha mangiato per nulla. Ecco, abbiamo delle città dove i 466 euro diventano 900 e rotti, oppure 850, 800, e altre invece che se la cavano un po' meglio. Le migliori, per dir così, cioè le peggiori dal punto di vista delle tasche, Milano e Venezia, e tutto il conto sulle pagine sulle 24 ore di oggi. E poi ti voglio segnalare, sai che noi italiani cambiamo poco i contratti di gas, luce, telefonia, eccetera. C'è una percentuale di infedeltà abbastanza bassa, siamo fedeli, come dire, siamo consumatori abbastanza, ma chi può dirlo, o forse anche un po' frenati magari da chissà, da qualche vincolo, da qualche difficoltà di confronto tra un fornitore e l'altro. Tutte queste cose vengono analizzate da Valeria Uva e Antonello Cherchi oggi e ci spiegano appunto che potremmo anche cambiare qualcosa in più, magari cercare qualche occasione di risparmio in più. Ti ricordo, cara Anna, ti ricordo che il 16 devi pagare l'IMU e anche la TASI. Mi spiace darti queste cattive notizie, le do più volentieri ad Alessandro, però noi intanto per me questa settimana, Per agevolarti ti mettiamo anche una serie di domande e risposte, oggi è pagina 2, domande e risposte su questioni, diciamo, di base per capire come bisogna regolarsi in vista di questo secondo appuntamento alla cassa, e lo dico, vabbè, certo non con tanta gioia. Per caso vi piacciono i fumetti, Anna? Sì, perché, come no? Ecco, perché nelle pagine di Risparmio e Famiglia, che come ogni lunedì trovi sul Sole 24 Ore, parliamo proprio delle collezioni di fumetti come investimento, cioè quella che nasce come passione può rivelarsi poi un investimento. Ci sono numeri primi di alcuni famosi fumetti che possono valere anche migliaia di euro, ma se vuoi capire di più ti scrivono tutto oggi le pagine di Risparmio e Famiglia, Marina Pirelli e il suo Tesoro in Soffitta, che è una rubrica abituale. Poi, diciamo, non, è un po' un qui radiofisco, che è una cosa che segnalo sempre con Alessandro. Potrei proporre ad Alessandro una sigletta, in effetti. Di solito facciamo questo momento di silenzio con qui radiofisco. Qui non è proprio un qui radiofisco, ma è un qui radiodiritto, perché dall'11, attenzione che dall'11 cambiano le regole per i pignoramenti. E vi spieghiamo perché diventa più facile, ad esempio, pignorare le auto o le moto, insomma. Quindi andate nelle Attenzione. Pagine, indovina dove, indovina in quali pagine bisogna andare a controllare questo oggi, nelle pagine naturalmente di norme e tributi. Come poteva mancare? No, aspetta, io ti faccio lanciare il traffico, perché so che tu aspetti questo momento, ma mi ascolti un attimo, perché facciamo anche la Gazzetta dello Sport. Parlavamo della Scala, più che la Scala sembra il Titanic, no. Belmondo di onorare Sant'Ambrogio, Milan e Inter crollano in tandem. La musica che arriva dalla Scala sembra quella del Titanic, le milanesi insieme sommano 3 soli punti in più della Juve. Restano entrambe ai margini dell'Eurozona, al di fuori della cerchia dei navigli. Luigi Garlando, la Gazzetta dello Sport. Mauro. Ecco. Sì, no, preferivo parlare quasi delle tasse locali. E dell'IMU. Vabbè, è il tuo momento. Va bene, vado allora, grazie comunque Anna, grazie, che sei molto cara. Traffico! Non una scissione, non una durata di epurati, non una corrente di dissidenti, non un'ereduzione di rancori, così si scrive sulla stampa di oggi Giuseppe Salvaggiolo, ma cosa sarebbe stato una sfida aperta e strutturale alla diarchia Grillo-Casaleggio, mettendola per la prima volta in mora in forma pubblica davanti a 400 militanti ed eletti arrivati con avventurosi viaggi notturni da tutta Italia e ad altri 700 collegati in streaming. Se ci fosse stato posto, almeno altri 100 avrebbero voluto partecipare, come i 40 bloccati in Calabria quando già avevano prenotato il pullman. Non dobbiamo essere liberi di dire la nostra senza paura di essere mandati via, avrebbe potuto dire che fai, mi cacci, se la formula non fosse logora, oltre che francamente infausta. Di sicuro non è stata una Leopolda, e non solo perché in platea si vedevano più felpe che camicie bianche, ma che in questo albergo della periferia parmigiana sia andato in scena un Midas grillino, una seduta di autocoscienza senza prospettive o l'antefatto di un'implosione, si capirà presto. Così la pensa la stampa. Michele Smargiassi sul La Repubblica scrive invece: ieri mattina Federico Pizzarotti si è svegliato sentendosi come Rosa Parks. Lui ha detto Parker, ma passi. La donna nera dell'Alabama che nel 55 si rifiutò di cedere a un bianco il suo sedile del bus e scatenò la rivolta per i diritti civili negli Stati Uniti. Anche lui ha deciso di non alzarsi e di non cedere il posto. Io nel Movimento 5 Stelle ci resto. Lo sa benissimo da sé, non ci pensa proprio a fare un altro partito, lancia la sfida a Grillo per quello che c'è già. Così invece la pensa la Repubblica. E allora, come tutti i sindaci che aspirano a ben altre poltrone, anche attorno a Pizzarotti c'erano i suoi. Sul Messaggero, a pagina 13, l'intervista a Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle. Abbiamo perso l'emozione, il logo, tema da affrontare, eccolo il grande tema venuto fuori da ieri, il nome di Grillo o meno sul logo dei 5 Stelle. Giulia Sarti, la deputata che non ha escluso che un simbolo del movimento senza il nome di Grillo non sia un tabù. Cosa intende? Le chiedono. Non bisogna girarci tanto attorno. Il simbolo di proprietà di Beppe Grillo, che in quanto garante, se volesse, potrebbe anche non farci votare. È un problema che va discusso. Può esistere un movimento senza Beppe Grillo? Non è in discussione adesso, risponde. Perché è stata una giornata importante allora? Abbiamo capito che il confronto serve, che dobbiamo aprirci di più. Cosa apprezza del sindaco Federico Pizzarotti? Il saper spiegare alle persone i bellissimi risultati raggiunti e la capacità di parlare a molti. Così sostiene Giulia Sarti. Leopolda o non Leopolda, cosa è stato ieri il Pizzarotti Day? Tutto da vedere, tutto da capire. Lo cercheremo di capirlo anche noi. Già vi anticipo, così anzi ne approfittiamo. I temi di cui parleremo dopo il giornale radio delle 8, parleremo proprio con una deputata del Movimento 5 Stelle che ieri c'era, per capire quali saranno i prossimi passi e cosa ne viene fuori da questo Pizzarotti Day, chiamiamolo un po' così. E poi parleremo anche della prima della Scala, degli scontri fuori, di quel che è successo dentro, di quanto è o non è un rituale tutto quello che è avvenuto ieri. Ma dicevamo, parleremo anche poi del Movimento 5 Stelle. Allora, per un sindaco che aspira ad altro, una curiosità, ve la vado a scovare dalle pagine interne del Corriere della Sera. Un aspirante sindaco, Mara e la Corte del Cavaliere. Parliamo di centrodestra, però in questo caso sindaco di Venezia mi tenta. Di chi parliamo? Di Mara Venier. Per anni signora della domenica, un giorno non troppo lontano Mara Venier potrebbe correre per la poltrona di sindaco di Venezia. Non è una boutade, è una richiesta che arriva da Silvio Berlusconi, davanti alla quale la conduttrice è rimasta spiazzata, ma ha detto: beh, potrei anche farlo, potremmo comparire un volto nuovo, chi lo sa. La Stampa intanto, per restare ancora al mondo della politica, così vi faccio un po' arrabbiare, perché mentre il Movimento 5 Stelle si riunisce, ecco che succede: i peones possono rialzare la testa, perché niente tagli dei peones, e ai peones passa la paura. Carlo Bertini, camere con vista, pagina 5 della Stampa. Era l'ultimo ostacolo da superare per stare davvero tutti più tranquilli. È vero che il governo al Senato aveva già stoppato la diabolica manovra, ma ora qualcuno tira un sospiro di sollievo sollievo Montecitorio e dalle sue buone ragioni. Nelle pieghe della battaglia sulla riforma costituzionale, anche alla Camera è stato alzato un argine contro le proposte di tagliare, oltre ai 200 e passa senatori, anche un centinaio e passa di deputati. E visto che su questo punto il governo ha retto un doppio assalto, sono centinaia i peones che sperano di averla scampata, perché al prossimo giro ci saranno sempre gli stessi posti in tavola. Sabato mattina la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti alla riforma per tagliare anche i componenti dell'Assemblea di Montecitorio e non solo i senatori, che vengono ridotti da 315 a 100, stessi posti a tavola a Montecitorio, camere con vista, così sulla pagina di Repubblica. Abbiamo un ultimo, allora abbiamo ancora un minuto e mezzo, riusciamo ancora a darvi un'ultima segnalazione. Allora, l'ultima segnalazione ve la diamo e torniamo ancora alla Gazzetta dello Sport, perché non parliamo più di calcio, ne abbiamo parlato con Mauro Meazza, ma parliamo di calcio e di soldi invece. L'onda straniera dei proprietari, scrive Carlo Laudisa, il fenomeno. Abbiamo invocato per anni l'avvento dei nuovi imprenditori, gli ultimi mesi hanno fatto registrare nel calcio un autentico boom. Proprio ieri Tommaso Girardi ha annunciato l'imminente vendita del suo Parma ad una mini sconosciuta per ora accordata russo cipriota. Il caso del club emiliano ha occupato le cronache più recenti d'altra parte e prosegue Carlo Laudisia. Il primo grande scossone è arrivato con la Roma, poi con l'Inter. I nuovi arrivati hanno ereditato gestioni complesse e stanno adoperando per voltare pagina. Di sicuro, aggiunge, però, non sono i nababbi che in altre nazioni hanno investito cifre da record. Le riforme in atto della Federcalcio guardano molto all'esempio della ricca Premier League, dove vige un'accurata clausola di salvaguardia. Lì chiunque voglia acquistare un club, prima di finanziarlo, deve sottoporsi ad attente verifiche finanziarie che ne garantiscano la solidità e addirittura i requisiti etici. E allora, è un momento molto delicato, il nostro calcio deve cambiare pelle, visto che non è più il tempo dei mecenati, non è facile trovare investitori italiani, ma non è neanche il caso di mettersi in mano al primo che passa. È in gioco il futuro di tutti, anche il calcio, insomma, cerca soldi. La Gazzetta dello Sport, così abbiamo concluso veramente la carrellata un po' su tutti i quotidiani italiani di questa mattina. 7:55 minuti, puntualissimi, Peter Bescapè, non abbiamo sforato, promesso, ci siamo, c'è GR24 e poi torniamo ancora con 24 Mattina.